insieme operai, tecnici d'impresa, progettisti, costruttori, tutta l'industria delle costruzioni, un pezzo molto importante della società civile e dell'economia. Abbiamo voluto rappresentare il disagio di una situazione non più insostenibile, dove a vecchie questioni che non vanno, burocrazia, fisco e il funzionamento, diciamo, non buono del settore delle costruzioni, e si sono aggiunti fattori di crisi come i mancati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche a causa del patto di stabilità e le risorse che scarseggiano sempre di più. Con grande responsabilità noi vogliamo contribuire assolutamente con decisione alla ripresa dell'economia italiana, e secondo noi l'industria dell'edilizia, attraverso le infrastrutture, attraverso il risanamento delle scuole, il risanamento del territorio dal punto di vista idrogeografico, il risanamento naturalmente delle nostre città e la riqualificazione, può dare questo grandissimo contributo, e noi siamo per dire che non possiamo continuare così passo per passo. Qui ci vuole una grande svolta, bisogna toccare i temi di fondo, bisogna fare le grandi riforme, bisogna partire con decisione con un grande progetto.